Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata da Davide Paolini. Ebbene, oggi parleremo di pesce crudo, o meglio, come somministrarlo, quali sono i regolamenti per poterlo così offrire al consumatore. Quindi, perché questo? Perché sicuramente il pesce crudo ha dei problemi. Ecco, io non vorrei fare dell'allarmismo, per carità, però sicuramente ci sono delle regole alle quali bisogna attenersi. Ma prima di entrare in questo argomento, io vorrei fare una chiosa rispetto alla settimana scorsa, alla trasmissione sull'olio, olio d'oliva extravergine, sul deodorato, perché diciamo che abbiamo sentito un paio di esperti che abbiamo così ascoltato, i quali erano favorevoli all'alchil estero portato a 150 mg per chilogrammo. Ebbene, io ero abbastanza contrario, sono stato abbastanza duro, però voglio portare anche una pezza giustificativa a quanto io ho asserito. Bene, leggo da Ernesto Corraretti dell'ARPA di Ascoli Piceno, dopo aver fatto una lunga indagine, che conclude: si può quindi ragionevolmente dire che il limite di 150 mg per chilo fissato dal regolamento europeo non è rappresentativo di un olio extravergine ottenuto da olive sane e non scoraggia i produttori dal miscelare olio extravergine con olio di qualità inferiore come il deodorato con elevati valori di alchil esteri. Bene, chiudo qui, diciamo, questa parentesi, passiamo al pesce crudo, almeno alla somministrazione di prodotti di pesca nella ristorazione e un po' ovunque dove viene somministrato. Voglio ricordare il numero verde perché credo che interessi molto questo, diciamo, questo aspetto: 800 24 00 24. Messaggi SMS 349-238-6666. Bene, iniziamo questa trasmissione con Lino Stoppani, che è presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Buongiorno Stoppani. Buongiorno Davide, a lei e ai radioascoltatori di Radio 24. Volevo chiederle che il 24 di febbraio avete fatto girare una circolare tra i vostri associati, tra le associazioni e voi associate, in cui vi richiamavate un po', diciamo, alle regole di somministrazione della pesca destinate ad essere consumati crudi. Questo perché? Ci sono novità oppure no, perché è un grido d'allarme? No, l'iniziativa era stata attuata perché certamente sapete che in quel periodo ci sono state delle ispezioni da parte del NAS o comunque degli organi di controllo presso alcuni ristoranti dove erano state riscontrate della irregolarità nella gestione di quelle che erano l'informazione del cliente sul prodotto congelato. E allora sulla base di questa di queste iniziative che poi avevano un po' creato disorientamento al consumatore, ci siamo responsabilmente attivati per informare gli associati su quello che è il corretto uso in queste situazioni, dove evidentemente la necessità di informare il consumatore è un elemento per noi fondamentale. Preciso anche, Davide Paolini, che siamo l'unico paese al mondo che obbliga la ristorazione a evidenziare sui menu i piatti con prodotto a base di surgelato, e questa richiesta non è un requisito di ispirazione salutistica o igienica, ma ideato soprattutto per combattere le cosiddette frodi alimentari. E questo sistema certamente ha questo obiettivo importante, però penalizza i sistemi produttivi, per esempio quelli del surgelato, che oggi hanno nel nostro paese livelli qualitativi e di affidabilità totale. Pensi per esempio all'obbligo di tracciabilità. E poi anche sul pesce crudo o comunque. Ecco, sul pesce. Arriviamo a questo pesce crudo. Sì? Cioè il pesce crudo deve essere bonificato. Poi vedremo con alcuni tecnici come. Ma a lei chiedo: quando il pesce crudo viene bonificato, come viene comunicato al consumatore che è stato bonificato? Allora, bisogna distinguere. Allora, nel caso in cui il pesce crudo viene somministrato prendendo una materia prima acquistata, surgelata, è indispensabile che questa informazione deve essere esplicitata sul menu. Quando invece io uso e somministro del pesce crudo congelato, ma l'ho congelato rispondendo ad un'esigenza di carattere salutistico, perché la congelazione rapida per 24 ore del pesce crudo ha la finalità di combattere i parassiti presenti nel pesce, soprattutto nel tonno del pesce azzurro, che è l'anisakis. Allora, quando io acquisto un pesce crudo e lo congelo per rispondere a questa esigenza di carattere salutistico, è chiaro che non deve essere paragonato al pesce che ho comprato congelato, ma è la corretta prassi di gestione di un prodotto delicato, e in questo caso per noi è sufficiente informare il consumatore attraverso una dizione del tipo prodotto sottoposto a processi di sanificazione di cui al regolamento comunitario, senza precisare che stiamo lavorando un pesce congelato, perché è una cosa diversa. Bene, vuol dire comunque che non mangeremo più pesce fresco, nel senso che non è passato attraverso un'operazione di bonifica. Esatto, ma questo va a tutela del consumatore, va precisato e sottolineato, perché ripeto, nel pesce crudo c'è forte il rischio della presenza di parassiti che sono evidentemente patogeni per l'uomo. Senta, un'ultima battuta, ma i controlli dei nostri così NAS funzionano su questo punto? Beh, ascolti, guardi, gli organi di vigilanza, ho fatto un apprezzamento al ministro della Sanità Fazio lunedì scorso quando ha incontrato il mondo del commercio a Milano. Certamente i controlli vengono fatti seriamente e responsabilmente, anche con un atteggiamento molto diverso rispetto al passato. L'obiettivo dei controlli certamente è quello di tutelare, di presidiare le situazioni di rischio, ma la categoria, e qui mi prendo la mia responsabilità, deve sugli aspetti igienico-sanitari fare un salto culturale. I controlli di ispezione non devono essere visti come una minaccia di un controllo, di ispezioni, di sanzioni, ma come un'opportunità di crescere su quelle che sono le competenze, le conoscenze anche nella gestione di queste situazioni che oggi sono inaccettabili. Bene, speriamo che sia veramente così come lei dice, e speriamo che questi controlli non portino assolutamente a niente, perché come vedremo poi i rischi ci sono, e come, e io ho qualche dubbio che tutta la ristorazione italiana si sia adeguata a questa operazione di bonifica. Comunque vedremo, ne discuteremo. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Chiedo anche ai nostri radioascoltatori, se ci sono appunto dei casi successi che questa bonifica non è avvenuta o è avvenuta, di segnalarceli. Bene, sentiamo, abbiamo con noi Silvia Biasotto, che è responsabile del Dipartimento Sicurezza Alimentare, Movimento Difesa del Cittadino. Buongiorno Biasotto. Buongiorno a voi. Lei ha sentito questo nostro radioascoltatore che ha chiamato, che ha così denunciato questo fatto. Ecco, in questi casi un consumatore cosa deve fare? Sì, allora intanto c'è da dire che l'anisakis è naturalmente presente in determinate specie di pesci, essenzialmente nel pesce azzurro e un po' in tutti i mari, e a differenza di altre problematiche sanitarie o merceologiche dei prodotti, non vi è, diciamo, la colpa dell'uomo, è naturalmente presente nel pesce. È presente in particolare nelle viscere dei pesci, perché diciamo la catena alimentare prevede, insomma, questi pesci lo acquisiscano mangiando dei gamberetti, quindi appena pescato lo si può già vedere nelle viscere degli animali. Se lasciato il pesce, giusto un attimo per spiegare appunto quello che stavate dicendo, se si lascia il pesce e non lo si eviscera, lo si lascia soprattutto alla luce e al calore, dopo qualche ora, certo, questo, diciamo, vermetto che inizialmente ha arrotolato nelle viscere degli animali del pesce migra nelle carni, e lì è il pericolo, insomma, di ingestione da parte dell'uomo. E quindi, insomma, questo può accadere. Quali sono, cioè, per capire se c'è stato, insomma, un non rispetto delle regole da parte dell'operatore? Essenzialmente diciamo, il primo passo è quello di eviscerare subito questi pesci. Per alcune specie, pensiamo alle alici, questo è abbastanza impossibile. Non si può pensare che le alici vengano subito eviscerate, visto il grande numero e le piccole dimensioni nelle barche. Per questi pesci però a rischio, appunto, come dicevate prima, la bonifica o l'abbattimento, come lo vogliamo chiamare, se devono essere consumati crudi, o attenzione, anche praticamente crudi, e qui intendo la marinatura, devono essere congelati a meno 20 gradi per almeno 24 ore. Mi scusi, lei ha parlato di marinatura, quindi devono essere anche bonificate quando avviene la marinatura? Sì, perché comunque il parassita non è... è molto resistente all'aceto, al limone, quindi comunque la marinatura non lo elimina. Sicuramente vengono effettuati dagli operatori anche, appunto, l'eviscerazione immediata o dei controlli visivi. È, insomma, abbastanza visibile il parassita, quindi sicuramente un adeguato trattamento del pesce tramite l'eviscerazione, insomma, la pulizia può eliminare il parassita. Fatto sta che comunque di regola il parassita si elimina esclusivamente o con la cottura oltre 65 gradi o con l'abbattimento, ovvero il congelamento a meno 20 gradi per almeno 24 ore. Queste sono le due metodologie che danno sicurezza al 100%. Ecco, rimanga con noi perché poi le farò altre domande. Sentiamo Iuri dalla provincia di Brindisi. Buongiorno Iuri. Salve, buongiorno. La mia domanda era questa. Parlando di pesce crudo, nel caso dei frutti di mare, mi è sempre stato detto che comunque la freschezza del frutto di mare si vede quando poi si spruzza il limone, del limone sopra, il frutto di mare, diciamo l'ostrica o quant'altro si muove. In quel caso lo stesso devono avere un abbattimento per... oppure non hanno questo rischio? Bene, guardi, la sua domanda è la domanda di 4-5 sms già arrivati. Allora, abbiamo con noi Massimiliano Laimo delle Calandre di Padova. Bene, Massimiliano Laimo è molto attento a questi problemi e mi sembra che si sia sollevato il problema dell'ostrica. Allora voglio chiedere a Massimiliano Laimo, ma tu usi le ostriche e quindi come fai? Le abbatti? Buongiorno, sempre me le domande più facili intanto. Sì. Comunque sia, sì, noi procediamo da 5 anni a questa parte, abbiamo codificato un sistema di procedura per i quali tutto il pescato che noi serviamo crudo, e non solo crudo, quello che noi trattiamo come marinato, come affumicato, come cottura è sotto gli 80 gradi, anche sotto i 100 gradi per essere un po' più precisi, e noi li trattiamo con un abbattimento molto rapido di temperatura, perché andiamo a toccare temperature che vanno sotto i 100 gradi. Poi vengono, questo per creare una microcristallizzazione, per cui non una rottura della molecola del pesce, per cui nella fase di gelamento di servizio il pesce resta intatto, per cui perfetto dal punto di vista gustativo e nessuna dispersione di liquidi. E per quanto riguarda le ostriche, molte preparazioni noi le trattiamo proprio con dei sistemi di abbattimento, questo per garantire maggior salubrità, però c'è un altro punto fondamentale sull'ostrica che spesso non consideriamo, che è proprio quello della sporcizia o comunque del parassita che si deposita nel guscio esterno, appunto in questa, e spesso noi andiamo a degustare l'ostrica mettendo in bocca il guscio. Questa è un'attenzione che va verificata, nel senso che noi personalmente spazzoliamo tutte le ostriche sotto l'acqua corrente, poi vengono aperte e viene buttata via la prima acqua, poi l'ostrica comunque ne rilascerà ancora per un paio di volte la propria acqua e viene tolta dal guscio. E poi da quel momento in poi subisce tutti i trattamenti, per cui o l'abbattimento e poi creiamo delle creme, oppure l'abbattimento e poi viene lavorata, non so, all'interno di uno spaghetto, per cui termizzato, eccetera. Bene. Mi resta comunque irrisolta la questione dell'ostrica servita nel guscio e per quanto mi riguarda è uno dei quesiti che sto anch'io rivolgendo. Beh, agli organi preposti. Sentiremo una dirigente del ministero proprio su questo argomento. Sentiamo Armando da Treviso fra poco. Armando da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere, avete parlato di alici marinate. Sì. Ma le alici o le acciughe sott'olio, dal punto di vista del parassita, sono sempre a rischio o vengono cotte prima? Questo non lo... Chiediamo a Silvia Biasotto, che ha parlato appunto, abbiamo parlato di acciughe e di alici. Biasotto, prego. Sì. No, o devono essere cotte o comunque sono abbattute, e ovviamente l'abbattimento, cioè pensare di fare una cosa a casa rende il prodotto anche dal punto di vista organolettico non come avviene insomma con i ristoranti che hanno l'abbattitore. Ovviamente la velocità a cui viene e si arriva a basse temperature garantisce che poi il prodotto dopo sia perfettamente gustoso, come si può dire, come se fosse fresco. Comunque sia la marinatura che l'affumicatura a freddo sotto i 60 gradi non uccidono l'anisakis. Tra l'altro le acciughe, le alici, sono tra i pesci più a rischio di anisakis, come molti altri pesci azzurri, come il pesce sciabola, lo sgombro, sono proprio i pesci più a rischio. Bene, grazie a Silvia Biasotto, la ringrazio del suo intervento. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Sentiamo, voglio tornare da Massimiliano Laimo. Questa è una domanda, non è diciamo da tecnico, ma è veramente da chef. Quindi non mangiamo più il pesce crudo, non sentiamo più quei sapori di mare che un tempo venivano sentiti. No, beh, questo non è vero. Io direi che bisogna innanzitutto poter utilizzare la tecnologia al meglio. Prima faccio dei riferimenti precisi su delle temperature, eccetera. Questo preserva assolutamente sia il piacere che la sicurezza. Ecco, un'attenzione, che noi siamo arrivati un po' in ritardo rispetto ad altri paesi, immagino il Giappone, dove il tonno che importano dall'Italia arriva al mercato che è stato abbattuto a meno 60 gradi e non esiste tonno crudo pescato che venga servito, questo perché loro hanno esperienze anche di patologie serie. Una delle, e lo lancio qui perché insomma con la potenzialità che ha la vostra emittente, secondo me va presa in considerazione la possibilità di poter eviscerare il pesce a bordo. Questa è una cosa che secondo me, il trattamento già a bordo del pescato potrebbe essere il vero, la vera svolta, perché la temperatura dal momento in cui viene pescato il pesce, l'eviscerazione, il trattamento igienico a bordo è fondamentale. Poi tutto il resto noi possiamo farlo, intervenire, però se quando il pesce viene consegnato su delle casse che in qualche maniera vengono riciclate e lavate male, questo crea dei problemi di carica batterica che vanno al di là poi dei parassiti stessi. Ci sono una serie di parassiti che gravitano attorno a questo tipo di prodotto che non immaginiamo nemmeno. Noi abbiamo adottato delle tecniche di lavaggio in acqua salata, eccetera, appunto per scagionare questo tipo di rischi. Grazie a Massimiliano Laimo, grazie tante per la tua chiarezza. Sentiamo Fabio da Roma. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Io sono un pescatore sportivo. Mi capita spesso di andare a volentina in profondità a prendere cernie. Che le trovo spesso infestate di non so quale parassita, praticamente presentano quando si vanno ad eviscerare tantissimi piccoli corpicini di forma ovale. Lo sapete se questi pesci erano commestibili o meno? Bene, sai, è difficile, bisognerebbe vederli fisicamente, farli vedere a un esperto. Credo che la prima volta che lei ne prende qualcuno, magari va a un ASL, immediatamente glielo analizzano e gli rispondono di sicuro. Grazie Fabio, sentiamo Aldo dalla provincia di Caserta. Buongiorno Aldo. Buongiorno, salve signor Davide, complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere, io quando trovo il pesce fresco, specialmente quello azzurro, tipo alici, tonnetti, qualche trance di pesce spado, merluzzi e la cosiddetta frittura di paranza, come la chiamiamo noi a Napoli, dopo averlo pulito lo congelo nel mio congelatore di casa a meno 20 gradi. Vorrei sapere, faccio bene? Fa benissimo. La salubrità o no? Fa benissimo, benissimo. Lei è in regola completamente, anche se è a casa, quindi potrebbe anche invitare qualche amico. Grazie Aldo dalla provincia di Caserta. Abbiamo con noi ora Claudia Maddaluno, che è dirigente veterinario presso Digisan, Direzione Generale della Sicurezza Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute, quindi una persona che potrà darci delle risposte ben precise. Buongiorno Maddaluno. Buongiorno a tutti. Volevo, la prima domanda, che è un po' la domanda anche di molti radioascoltatori che hanno scritto, è questa: ma come facciamo a essere sicuri al ristorante oppure anche alla grande distribuzione o anche nei negozi quando compriamo del pesce crudo, quando ci viene servito del pesce crudo, che è avvenuta diciamo questa bonifica? Bisogna chiedere, esiste la possibilità di chiedere il certificato, lo devono mostrare, lo devono allegare al menù o qual'altro? Allora, il provvedimento emanato tra l'altro di recente dal Ministero della Salute e condiviso con il Comitato Interregionale per la Sicurezza Alimentare prevede chiare disposizioni in merito, a tutela chiaramente del consumatore e per la corretta informazione del consumatore. Tra gli adempimenti previsti dal provvedimento sicuramente c'è la necessità che il produttore nel momento in cui mette sul mercato prodotti della pesca crudi o praticamente crudi fornisca sostanzialmente un'attestazione, una certificazione dell'avvenuto trattamento di bonifica del prodotto stesso conformemente al regolamento igiene 853 del 2004. Nel momento in cui ci troviamo un'attività di ristorazione, può essere quindi un ristorante ma anche un punto vendita, l'operatore è comunque responsabile nel fornire questa informazione. Al di là quindi dell'attestazione che fondamentalmente viene garantita durante la filiera produttiva, tipica, quindi dal produttore al venditore finale. A livello di consumatore, di utente finale, che cosa possiamo aspettarci? L'operatore, in questo caso anche lo stesso ristoratore, è tenuto ad informare il consumatore, praticamente utilizzando in qualsiasi modo un'apposita dicitura, tra l'altro indicata anche nel provvedimento citato, nel senso che è tenuta ad indicare che il prodotto in questione è stato sottoposto a un trattamento certo. di bonifica conformemente alle prescrizioni del regolamento. Beh. E potrà scegliere di dimostrare e di evidenziare questo l'avvenuto trattamento in qualsiasi modo. Per esempio, se ci troviamo nel ristorante potrà essere utilizzato il menù, oppure se si tratta di uno spaccio di vendita sarà poi lo stesso operatore che potrà esporre eventuali cartellonistica nei banchi di esposizione in corrispondenza del prodotto. Voglio chiedere a Valentina Tepidino, che è direttore di Eurofish Market, cosa ne pensa lei in proposito? Io penso, come mi sono espressa già tante volte, ho sollecitato molto il Ministro della Salute in questa direzione, che forse andrebbero proprio obbligati i ristoratori a segnalare alla fine del menù il prodotto servito crudo, possibilmente crudo, quindi appunto marinato, salato, affumicato, eccetera, è stato abbattuto ai sensi del regolamento comunitario 853 del 2004. E non congelato, quindi, e non congelato, quindi non mettere congelato. No, è meglio oppure trattato, ecco, anche questo può essere, di modo che il consumatore, per forza di cose, prima di tutto si rende conto che il prodotto non può essere servito crudo o similmente crudo, perché se no c'è un problema per lui, per la salute, quindi comincia a farsi questa domanda: perché è stata scritta questa cosa? Così viene in questo modo anche promosso questo rischio, perché attualmente, come si è visto anche dagli sms che le stanno arrivando e dalle interviste, cioè, c'è molta ignoranza sul problema. Quindi sicuramente il fatto di essere tutti menù, perché tanta gente comunque almeno una volta alla settimana, non dico, o una volta al mese va fuori a mangiare, e normalmente il pesce è una delle pietanze che viene maggiormente richiesta quando si va fuori, comincia a porsi delle domande, dire ecco, allora chiede spiegazioni, gli viene detto così, e comincia anche ad evitare magari a casa di commettere lo stesso errore, quindi di dire no, forse adesso è meglio, se lo voglio mangiare crudo, appunto, di bonificarlo, come si dice. Bene, rimani con noi, lo ricordo, il numero verde 800 24 00 24. Io ritorno a Maddaluno, se lei è d'accordo di distinguere la parola congelato da, diciamo, trattato con bonifica o bonificato. No, il discorso è questo, come dicevo prima, nel nostro provvedimento abbiamo dato un'indicazione in merito, non parliamo di un trattamento con il freddo congelato, magari è sufficiente che venga indicato conforme alle prescrizioni del regolamento 853 con tutti i riferimenti normativi precisi, oppure sottoposto a un trattamento di bonifica preventiva in conformità alle prescrizioni del regolamento. È necessario in ogni caso che venga fornita un'informazione al riguardo, certo. Al di là della terminologia. Sì, quindi, no, perché secondo me c'è una leggera, no, c'è una sostanziale differenza anche rispetto al consumatore che legge congelato rispetto, quando ci sarà la conoscenza di che cosa significa bonificato, perché ancora magari la gente non capisce cosa vuol dire bonificato. Qui dovrebbe essere fatto, secondo me, una grande operazione di informazione e di comunicazione. Sentiamo Maria Luisa da Milano. Buongiorno Maria Luisa. Sì, buongiorno Davide Paolini. Senta, io ho un problema, ho un marito molto capriccioso alimentarmente parlando. E in queste ultime settimane la sua prevalenza di nutrizione sono alici in salsa piccanti e ostriche crude, che io acquisto regolarmente o al super o al Carrefour, quello che è. E naturalmente né le spazzolo, le apro, cerco di mantenere l'acqua che in esse è contenuta, perché mi sembra che quello sia un sinonimo di freschezza, e le servo con limone. Cioè, quali sono i rischi? Ecco, allora torniamo alla dottoressa Maddaluno, perché era una domanda che volevo fare. In questo provvedimento di bonifica sono considerate anche le ostriche? Dunque, il provvedimento in materia si applica a tutti i prodotti della pesca, da consumarsi crudi o praticamente crudi, come recita il regolamento 853. Pertanto, considerando che le ostriche non rientrano nella definizione di prodotti della pesca, in quanto sono molluschi bivalvi vivi, alle stesse non si applica la specifica sezione del regolamento 853, pertanto non si applicano le disposizioni del provvedimento. E quindi per mangiare le ostriche ed essere tranquilli cosa dobbiamo fare? Per le ostriche sussistono altre problematiche che non riguardano strettamente il problema della parassitosi, che è legata maggiormente al consumo dei prodotti della pesca. E quindi cioè, quali sono i pericoli delle ostriche? Ci sono pericoli, immagino. Allora, chiaramente ci sono i pericoli possono essere differenti dal punto di vista, diciamo, tossicologico, microbiologico, anche virale. È chiaro che il provvedimento non entra in merito a questi aspetti, perché si tratta di un'altra tipologia di prodotti ittici fondamentalmente. Quindi bisogna fare un provvedimento a parte per le ostriche, immagino. Ma già esistono delle disposizioni, già il regolamento prevede dei controlli specifici per questa tipologia di prodotti. Bene, sentiamo da Valentina Tepedino, che diciamo Fish Market ha fatto degli studi veramente importanti, uno sull'anisakis e un altro sul pesce crudo, interrogativo se è un rischio. Voglio chiedere a lei se si sono occupati anche delle ostriche, oppure... Sì, assolutamente, nei molluschi bivalvi, voglio tranquillizzare un po' i consumatori perché ho sentito prima anche l'intervista appunto allo chef Emo, eccetera, non sono mai stati riscontrati casi, come diceva anche la dottoressa prima, di anisakis, quindi per quello che riguarda il problema anisakis, i molluschi bivalvi in generale, a quanto ad oggi risulta, anche dati bibliografici eccetera, non risultano colpiti, quindi non rientrano nella catena specifica dell'anisakis, che poi è il parassita che non si trasmette all'uomo. Quindi sono altri problemi, come diceva la dottoressa, di natura più che altro virale o a seconda poi chiaramente del mollusco, quindi assolutamente non abbiamo questo rischio, se parliamo di anisakis non abbiamo questo rischio. Lì è importante prendere sempre il mollusco ben chiuso, confezionato, non reimmergerlo in acqua, sono altri problemi, verificare che sia vitale al momento dell'acquisto e che poi sull'etichetta come risulta, a seconda di dove è stato pescato, venga depurato o meno, perché ci sono una serie di regole ben appunto specifiche, come diceva la dottoressa, che sono comunque puntualmente verificate poi dagli organi di controllo. È importante lì la gestione, saperlo acquistare vive vitale, ripeto, e poi non reimmergerlo in acqua. E quello di cui parlava lo chef Alaimo è un problema diverso dall'anisakis, che dà poi un odore molto sgradevole al prodotto, ma è un problema di tipo sensoriale, non comunque di un problema di pericolo per la salute, ecco. Bene, grazie a Claudia Maddalune e a Valentina Tepedino. Ora sentiamo Teresa dalla provincia di Milano. Buongiorno Teresa. Sì, buongiorno signor Davide. Prego. Dunque, io metto spesso le alici sotto sale, sotto pressa per 3 mesi. Anche in questo caso devo prima trattarle col congelamento? Beh, penso proprio di sì. Da quanto ci è stato detto, diciamo che l'anisakis è nelle viscere e quindi probabilmente, non so se il sale incide o non incide, ma penso proprio di no. Ora poi abbiamo anche altri esperti, lo chiederemo per avere la sicurezza, darvi la sicurezza di poterlo mangiare. Grazie, Riccardo da Biella, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi dica. Io chiamo per un'informazione sul sushi. Ho una moglie che è molto golosa di sushi e lo mangerebbe anche a colazione. E volevo sapere, il consumo eccessivo di sushi, in questo caso di pesce crudo, anche a prescindere dai rischi dei vari parassiti, può essere dannoso per la salute oppure... in caso fosse bonificato si può sempre consumare senza problemi? Beh, io credo che anche qui c'è questione di quantità, è evidente che se uno mangia chili tutti i giorni ovviamente le indicazioni negative arrivano, ma se uno lo mangia una tanto un paio di volte a settimana non credo che succeda assolutamente niente, come dimostra il popolo giapponese. Ora abbiamo con noi il Gualtiero Fazio, che è direttore sanitario dell'ASL per il mercato ittico di Savona. Buongiorno Fazio. Buongiorno. A lei le faccio una... Grazie, le faccio una prima domanda che è quella che io ho lasciato in sospeso, quella se le alici trattate sotto sale, se hanno bisogno o meno dell'abbattimento. Di per sé il trattamento sotto sale è in grado di uccidere il parassita purché la salagione venga mantenuta per almeno alcune settimane. Trattandosi normalmente di una salagione piuttosto forte, quindi con molta aggiunta di sale, possiamo dire che in 3 settimane che sono molto al di sotto del periodo normale di maturazione del prodotto, è in grado di uccidere il parassita. Quindi in teoria non hanno bisogno. Se viene fatta una salatura, come dico, classica dell'acciuga salata italiana, non ha bisogno del trattamento. Questo non vale per sott'olio invece? Il sott'olio, bisogna vedere, probabile, è possibile anche che per i prodotti sott'olio vengano utilizzati acciughe salate e poi messe sott'olio. In questo caso ovviamente c'è la salatura precedente che è in grado di uccidere il parassita. Bisogna vedere come dal punto di vista tecnologico, tecnico, come viene quella preparazione e poi decidere che cosa fare, quindi anche una valutazione dello stesso produttore che deve essere fatta. Senta Fazio, così una domanda che credo magari la vedo anche su molti SMS, ma viene spontanea. Una volta bonificato il pesce crudo, e quindi se non viene mangiato, può essere congelato oppure può essere riutilizzato, quindi messo in frigorifero e siamo tranquilli? Cioè non è possibile ricongelare nuovamente il prodotto, ecco, questo è chiaro. Appunto. Perché ha già avuto praticamente un trattamento. Prima si sentivo parlare di abbattuto e congelato. Abbattuto è semplicemente il portare in tempi brevi il prodotto, certo, dalla temperatura ambiente a meno 20, però poi a meno 20 deve rimanere per 24 ore almeno. Volevo a questo proposito rispondere a un ascoltatore che diceva del frigo di casa, l'uso del frigo di casa. È chiaro che il frigo di casa non congela. Arriva a meno 20, soprattutto bisogna vedere quale tipo di frigo si ha in casa, per cui le 24 ore devono essere prolungate, normalmente si almeno un paio di giorni bisogna tenere il prodotto in casa con il frigorifero, col congelatore di casa. Bene, rimanga con noi Fazio, sentiamo Narciso dalla provincia di Chieti, buongiorno Narciso. Mi avete appena risposto perché volevo proprio sapere quanto tempo doveva rimanere il pesce nel frigo di casa, nel congelatore del frigo di casa, per evitare i rischi. Bene. Mi ha appena risposto. Noi anticipiamo le domande, leggiamo nel pensiero. Bene, ora abbiamo con noi un altro chef molto importante per il pesce, non solo, è anche un operatore perché produce del pesce anche in scatola, ha creato dei prodotti molto interessanti ed è Moreno Cedrone. Buongiorno Moreno. Buongiorno Davide, buongiorno, ecco, a tutti. Da te voglio chiedere, ci sono prodotti in salamoia, tu hai prodotto prodotti in salamoia e altri prodotti molto molto particolari, e quali sono le difficoltà appunto per garantire al consumatore che non ci sono parassiti, non ci sono anisakis, quindi è molto complesso per questi prodotti, molto più che il pesce crudo? Ma no, è lo stesso, perché comunque la salatura in questi casi è breve e comunque vanno trattati come gli altri, ma io l'ho scrissi già nel 2000 nel libro su Shen Sushi, quindi la porto avanti da tantissimo questa lotta contro l'anisakis e questo voler portare la legge che c'è sempre stata, però europea, che però era per i laboratori, portarla anche all'utilizzo dei ristoranti, ecco, questo è stata sempre una mia battaglia. L'importante è che poi i ristoranti la usano bene, cioè che adesso non diventi una mercè per quei ristoranti che congelano il pesce dopo tre giorni e dicono che lo devono sanificare, ecco. Quindi è vero, cioè qui si tratta anche di buona fede a questo punto, anche perché è molto facile appunto fare l'uno o l'altro. La differenza tra congelato e abbattuto e bonificato abbiamo sentito che è molto molto diversa, quindi sicuramente hai perfettamente ragione. Voglio farti un'altra domanda Moreno, ma sì. Ho sentito parlare anche di abbattimento con l'azoto liquido. Dunque, ma l'azoto liquido sì, diciamo che è l'industria... abbrevia i tempi con l'azoto liquido, perché chi fatto nel latte di pesce certo non deve avere delle celle grandissime, quindi con l'azoto liquido è un passaggio sul nastro dove viene a contatto l'azoto liquido, però lo fa l'industria, ecco, diciamo noi nel nostro piccolo abbiamo gli abbattitori, ne usiamo uno per questo tipo di trattamento e quindi penso che vada benissimo. Tutti noi OSA, ecco, operatori del settore alimentare, perché sentivo che poi molti lo vogliono fare a casa, ma adesso non portiamo subito questa cosa nelle case, perché poi ci sono sempre problemi. Non sappiamo nemmeno ognuno di noi a casa il proprio frigorifero che temperatura ha, ecco. Bene, grazie a Gualtiero Fazio, avrei voluto fare tante altre domande ma il tempo è scaduto. A Moreno Cedroni, mi spiace per un radioascoltatore, Massimo da Bologna, ma abbiamo chiuso. Io devo passare appunto la linea alla regia per le prossime trasmissioni. Vi saluto, vi do appuntamento tutti i giorni alle 11.05 e alle 23.05 con le pillole del gastronauta. Buona settimana da Davide Paolini.